Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, martedì 12 cade il 150enario della nascita di uno dei protagonisti della letteratura italiana e non soltanto, e cioè Gabriele D'Annunzio, personaggio molto discusso anche in vita, ma certamente tra i protagonisti della cultura italiana e non soltanto del suo tempo, e sicuramente tra i giganti della lingua e della letteratura del nostro paese. Di lui escono varie edizioni in questa occasione, vi segnalo per esempio la ristampa anastatica, cioè la copia della prima edizione del 1912 della sua prima raccolta di poesie, Primovere. Questa è l'edizione per così dire ufficiale di quella raccolta, è pubblicata da Carabba, 146 pagine, 13 euro. Poi è uscito da Nero su Bianco Il fuoco nella pineta, anche questo nella versione originaria, 12 euro, 88 pagine. E poi ancora un titolo di particolare attualità, perché sono gli scritti che ha dedicato a Wagner, di cui pure quest'anno ricorre il 22 maggio, il 150enario della nascita. D'Annunzio dedicò a Wagner i vari scritti nel 1893, aveva scritto degli articoli su un giornale romano che sono ora raccolti nel libro Il caso Wagner, pubblicato da Elliot, 64 pagine, 7,50 euro. E poi su D'Annunzio vi segnalo D'Annunzio in prosa di Renato Barilli, un grande critico letterario del Novecento, pubblicato da Mursia, 300 pagine, 20 euro, e di Giuseppino Mincioni, genitore di Gabriele D'Annunzio nei racconti del figlio, pubblicato da Solfanelli, 136 pagine, 11 euro. Infine un grande divulgatore come Antonio Spinosa ha pubblicato D'Annunzio, il poeta armato, con Mondadori, 344 pagine, 11 euro. E il più recente è La mia vita carnale, amori e passioni di Gabriele D'Annunzio, di Giordano Bruno Guerri, pubblicato da Mondadori, 230 pagine. Giordano Bruno Guerri a D'Annunzio ha dedicato molti studi e molte ricerche, attualmente è il presidente del Vittoriale degli Italiani, la villa di Gardone Riviera dove D'Annunzio visse i suoi ultimi anni e dove è sepolto, che poi regalò al paese e che oggi è un patrimonio aperto al pubblico. Guerri è anche direttore del D'Annunzio Festival di Pescara, la città dove appunto il poeta era nato 150 anni fa, e quindi ho chiesto proprio a Giordano Bruno Guerri di assumere la parte di Gabriele D'Annunzio in questa intervista impossibile. Buongiorno a Gabriele D'Annunzio. Buongiorno a voi, come state? Bene, bene. Allora, come devo chiamarla? Maestro, vate, principe, come preferisce che l'appelliamo da questa postazione radiofonica? Comandante è l'appellativo più giusto. Ah, comandante, benissimo, benissimo. Allora, comandante, in questo cento... Che vale sia in tempo di guerra sia in tempo di pace. Comandante di arte, di bellezza, di guerra, di stile. Bene, allora in questo 150enario dalla nascita, che cosa pensa di poter dire a un lettore di oggi? Quello che posso dire ai lettori di tutti i tempi, che la propria vita deve essere un capolavoro e che va costruita con bellezza, con eleganza, con gusto e soprattutto con audacia. Ecco, appunto, lei ha fatto un programma di fare della vita un'opera d'arte. Pensa davvero di esserci riuscito? Sì, se considero le vite dei miei coetanei, di chi ha vissuto la mia epoca, di chi ha vissuto dopo, di chi ha vissuto prima. Certamente, come tutti i capolavori, anche il mio potrebbe essere migliore. Ho l'umiltà di riconoscere le mie fatiche di artiere, come a volte fallaci. E uno dei capolavori in cui realizzò questo gusto estetico naturalmente è stato la sua villa di Gardone, il Vittoriale. La mia casa di pietre vive è l'abito che io indosso con maggiore eleganza, perché è quello che più mi somiglia, rispecchia il mio gusto, rispecchia i miei studi, rispecchia il mio passato e il mio futuro. È un abito senza tempo nel quale gli altri entrano, ma che io solo posso indossare con regalità. Senta, una parte importante nella sua vita e nei suoi programmi estetici ebbe l'amore. Tra l'altro è appena uscito in Italia un libro di uno studioso che approfondisce molto la sua vita e che mette come citazione iniziale queste sue parole: nessuno mi conosce per quel che sono, tutti credono che il mio libertinaggio mi sminuisca, mentre esso mi serve ad avere ancora più sete della mia arte. Quindi il libertinaggio come strumento anche questo di realizzazione dell'arte, perché è uno strumento fondamentale per la conoscenza di sé, dell'uomo e della donna, e quindi della bellezza e della vita e dell'arte e del gusto. Il libertinaggio non è nient'altro che godimento realizzato e quindi conoscenza. Io dissi anche: non chi più soffre né più gode conosce. Quanto a quello studioso che lei cita, io so che si chiama Guerri, lei sa che nella mia ultima opera, Le Dix du Sord et du Muet, io ho nominato il protagonista Guerri e che nel frontespizio dell'opera ho voluto fosse scritto di Gabriele D'Annunzio, che si chiama Guerri. Non a caso mi considerano uno sciamano. Una premonizione, insomma. Un annuncio. Mi chiamo D'Annunzio. Giusto. Senta, in questi amori che ebbero una parte così importante, quali furono i più fulminanti nella sua vita, nella sua esperienza? Io ricordo con struggimento carnale, appunto, Giusina Mancini. Una delle meno note, una delle meno suggestive per il pubblico, ma con la quale io ho avuto una passione di carne vera, una passione che ho celebrato per la prima volta l'11 febbraio del 1909, questo 11 febbraio che poi mi è stato sciupato da quel marrano del mio amico Filippo Tommaso Marinetti e da quell'altro orribile marrano di Benito Mussolini, che proprio quel giorno mi combinò i patti con il Papa. Io quell'11 febbraio ho avuto la più straordinaria notte d'amore della mia vita con Giusina Mancini e non la dimenticherò mai, tant'è vero che ho voluto compiere la beffa di Bucca di un 11 febbraio e un 11 settembre iniziai l'impresa di Fiume, e 11 sono le cannonate che io sparo al Vittoriale per festeggiare. Ecco, un'altra passione nella sua vita fu la politica, naturalmente. Ha qualche cosa di cui pentirsi? Lei ha già fatto riferimento con un giudizio poco lusinghiero a Mussolini. Cosa contarono i suoi rapporti col fascismo? Pentire è un sentimento che io non posso condividere. Però posso provare dolore per certe mie decisioni. Una mia decisione sbagliata, certamente, è di non aver volato su Berlino quando il marrano Hitler, l'imbianchino ancora schizzato di calce, prese il potere in Germania, e non aver convinto il compagno Benito, perché tale è per me compagno Benito, a non rompere immediatamente con lui. Io dissi a Mussolini 34, Mussolini, occupa tu l'Austria per impedire a quell'uomo di farlo e nessuno ti potrà accusare di niente. Ma la forza non è di questo mondo. E lei si sente più di destra o più di sinistra? Lei ha avuto strani tentennamenti su questo, mi pare di ricordare. Lei forse si riferisce a quando dai banchi della destra parlamentare io passai ai banchi della sinistra dicendo vado verso la vita. Esattamente. Ebbene sì, è perché quel momento storico, pensi, che stavano approvando delle leggi liberticide con la mia complicità, non si può pensare, io sono il principe della libertà, la libertà è la mia bellezza suprema, quindi questo conta, destra, sinistra, sono concetti che non possono valere per me, che sono sopra e guardo sotto, io sono l'uomo che vuole la libertà prima di tutto per sé, poi forse per gli altri. Ecco, da là, dall'alto, da dove ci osserva, che cosa la ispira dell'Italia di oggi o che cosa la fa disperare? Dell'Italia di oggi mi ispira ancora la bellezza di cui ella è madre e che è tuttora la sua speranza. Io mi raggioio al pensiero che il Vittoriale che io ho donato agli italiani è ancora visitato da decine e centinaia di migliaia di italiani ogni anno e quindi essi hanno il rispetto e la comprensione del bello. Mi dispera che a questo bello non si accompagni la forza del carattere, la forza delle decisioni, la forza di vivere quotidianamente come se appunto si volesse fare della vita un'opera d'arte. Non tutti possono, ma che si faccia almeno della propria vita un buon artigianato invece che un frantume quotidiano. E in campo letterario lei intravede un suo erede o ha intravisto nei decenni passati un suo possibile erede? Non ci sono possibili eredi per me, che discendo direttamente da Dante, con pochi intervalli, cosa che io amo dire. Io so bene della grandezza di Leopardi come di quella di Petrarca, ma la mia passione civile, pari all'altezza della mia poesia, è pari solo a quella di Dante. Dove vuole che trovi un esempio simile oggi? E quindi non legge più? Io continuo a leggere i grandi classici, continuo a annusare le opere che molti autori mi inviano speranzosi e non trovo mai il profumo che mi attiri a tal punto da cadere dentro quel fiore. Grazie al comandante Gabriele D'Annunzio e auguri per i suoi 150 anni. Buona domenica. Portati molto bene. Non ne dubitiamo. Buongiorno. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Troviamo adesso una voce nota, molto nota agli ascoltatori di questa radio, e cioè Gianluca Nicoletti, che ritroviamo come autore di un libro molto importante che si intitola Una notte ho sognato che parlavi, così ho imparato a fare il padre di mio figlio autistico, è pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 16,50 €. Il sottotitolo dice tutto. Nicoletti ci parla qui della vita quotidiana di una famiglia, ma soprattutto di un padre alle prese con un ragazzo autistico, un ragazzone di 14 anni che non può mai essere abbandonato e che ovviamente condiziona ogni momento, ogni aspetto della vita di ciascun familiare. Nicoletti ci descrive la sua vita, vive praticamente in simbiosi con il figlio, ritaglia rispetto al rapporto che deve avere con quest'ultimo tutti gli spazi per poter continuare a lavorare, si deve misurare spesso con l'impotenza ad aiutare il figlio. L'autistico, scrive infatti Nicoletti, è una persona che se ne infischia di tutte le nostre regole, al massimo può dedicare al prossimo uno sguardo stralunato, senza grande trasporto e pensando a chissà cosa. Talvolta il padre stesso è divorato dall'angoscia e dal complesso di non fare a sufficienza. Dinanzi a questa situazione, di solito, scrive Nicoletti, il padre fugge. Oppure, è l'alternativa, ed è quella che Nicoletti sta vivendo, il padre e il figlio diventano dei gemelli inseparabili, come scrive l'autore. L'autore con questo libro confessa di aver sentito il bisogno di manifestare queste difficoltà, di mettere in luce nella società i problemi che deve affrontare una famiglia con un ragazzo autistico, e proprio da questo partiamo per fare alcune domande all'autore. Buongiorno a Gianluca Nicoletti. Ciao. Buongiorno. Gianluca Nicoletti, in questo tuo libro tu parti, e ne abbiamo parlato già nella presentazione che ho fatto, dalla esigenza di fare, come lo chiami tu, coming out, cioè di parlare apertamente di questi problemi che tante famiglie italiane hanno, rappresentato dall'avere un ragazzo autistico in casa. Ecco, che cosa ti ha spinto quindi a scrivere questo libro? Beh, senti, il fatto che sapevo di avere qualche chance in più rispetto ad ogni padre di ragazzo autistico, ma anche generalmente disabile, dell'area però di disabilità psichica, che è la più difficile da comunicare, perché esiste ancora questo antico pregiudizio, sia una sorta di determinazione divina per qualche colpa che c'è stata, avere un figlio disabile psichico. Dico, se non ne parlo io, che poi ho possibilità di farmi sentire e di aprire un dibattito su quelli che sono i problemi concreti delle famiglie, chi dovrebbe farlo? E quindi l'ho fatto. Mi è costato, perché costa naturalmente mettere il proprio privato e sciorinarlo al pubblico, soprattutto un privato doloroso, fatto di situazioni familiari difficili da superare, di difficoltà personali. Raccontare anche l'intima vita di un proprio figlio che non può nemmeno controbattere perché non ha strumenti per farlo, perché è autistico, mi è costato, ma sono contento di averlo fatto. Senti, una delle scoperte che si fa leggendo questo libro è quanto un ragazzo in queste condizioni possa aiutare a scoprire delle cose diverse, nuove. A un certo punto, per esempio, tu definisci Tommy, il tuo bambino, perché ha 14 anni, come il tuo radar sull'umanità, un fantastico rivelatore di umanità grottesca. Che cosa ti arricchisce da questo punto di vista la presenza di Tommy? Beh, innanzitutto sfatiamo antichi e anche comprensibili pregiudizi sull'autismo. L'autistico non è Rain Man, non è quella specie di genio matematico, è uno spettro molto vasto che va da persone vagamente taciturne come potremmo essere noi quando stiamo davanti a un computer ore e ore senza accorgersi del mondo, fino a persone con aspetti gravi della patologia che si sbattono la testa sul muro, fanno male a se stessi, fanno male agli altri. Ecco, mio figlio è una zona intermedia, un ragazzo che non parla, un bellissimo ragazzo, bello, robusto, alto, fortissimo, però non parla, non si esprime e non ama molto relazionarsi con il mondo. Però una volta che hai stabilito un contatto profondo, hai capito i suoi codici, sono codici essenziali, alcune cose mi danno ansia, mi danno fastidio, altre mi piacciono e quindi sorrido e le seguo. È anche uno strumento per capire alcuni aspetti sottili della relazione che noi non cogliamo, affannati come siamo sempre a costruirci delle sovrastrutture, essere sempre gentili, affabili, essere delicati, condividere il pensiero degli altri. Questo ci dà molto fastidio, ci stressa nella relazione quotidiana. Mio figlio è diretto, se una persona non gli piace non la guarda nemmeno. E quindi le persone che lui non guarda, in qualche maniera le guardo con un occhio un pochino più attento, dico: perché è il motivo per cui mio figlio, questa persona, non vuole nemmeno guardarla? Quando invece lui vede una persona, gli dà una carezza, gli fa un sorriso, cosa per lui rarissima, è una persona che ha una particolare apertura, ha una tolleranza verso il mondo, ha una gentilezza verso l'umanità che probabilmente io non avevo colto. Ecco, nel libro con molta leggerezza ma anche con grande arrabbiatura sottolinei le difficoltà quotidiane ad avere a che fare con questo problema, parli degli insegnanti di sostegno, della burocrazia ottusa. Secondo te di che cosa ci sarebbe bisogno per le famiglie italiane che hanno questi problemi? Che segnale si potrebbe dare a queste famiglie per essere veramente loro vicini? Beh, io il libro l'ho fatto perché voglio fare un libro che apra un tavolo su una problematica, è un libro d'inchiesta, sai, ho parlato di mio figlio, ma ho parlato della situazione dell'autistico adulto, che dopo l'adolescenza non è più nemmeno chiamato autistico, diventa un paziente psichiatrico generico. E non esiste più una struttura, non esiste più un progetto, non esiste più una terapia, non esiste più nulla. Se lo tiene la famiglia, poi lentamente queste persone scompaiono. Gli stessi medici che si occupano di autisti dicono: ma noi dopo l'adolescenza non sappiamo più nemmeno che fine facciano. Beh, questo non è possibile. È un'arretratezza culturale del nostro paese. All'estero esistono dei percorsi che vanno anche oltre la vita dei genitori. Quando io non ci sarò più, che sarà di mio figlio? Visto che al momento sono l'unica persona di riferimento per lui, per il suo quotidiano. Ricordo che l'autistico da solo non può nemmeno uscire dalla porta di casa, perché sarebbe pericoloso per se stesso soprattutto, perché perderebbe l'orientamento, passerebbe con il rosso ai semafori, non saprebbe cosa fare e soprattutto immaginati di trovarti a te nel centro della Cina che non sai il cinese, in una zona che non conosci nulla, non sai nemmeno cosa chiedere per trovare la strada verso il tuo albergo. È quella la situazione dell'autistico, in un mondo perennemente strano. Bisogna costruire delle strutture adatte, bisogna vincere i pregiudizi, superare le barriere culturali, convincere le amministrazioni che deve esserci degli spazi felici nelle città dove siano anche le persone che hanno delle difficoltà di relazione. Ecco, infatti tu scrivi che con il tuo libro vuoi contribuire a creare piccoli ma salutari movimenti di opinione. In che direzione allora? Questo di creare opinione pubblica e poi? Soprattutto di non sentirsi degli universi isolati, tante madri sole con dei figli giganteschi in casa che non sanno contenere, di cui hanno anche paura, perché l'autistico, se messo in situazioni di stress, diventa anche abbastanza aggressivo. Mia moglie ha paura di avvicinarsi a mio figlio perché gli ha incrinato una costa una volta semplicemente perché dava una carezza un pochino più robusta delle solite. Io stesso comincio a avere delle difficoltà, ma quando lui è in un ambiente a lui consono, costruito su sua misura, in cui ci sono delle giuste mediazioni con la realtà stressante che lo circonda, è una persona che può sviluppare dei talenti immensi. Quindi direi alle famiglie: non sentitevi sole, non pensate che è finita la vita, perché genitori infelici fanno figlio infelice. Le famiglie devono riacquistare una loro dimensione di accettabilità, di vita serena, di vita anche soddisfacente, di relazione, di felicità. Mi piacerebbe vedere dei genitori mediamente felici, perché possono avere la loro vita, e delle istituzioni che si prendono anche carico in dei momenti che bisogna lasciare i genitori a se stessi, i propri figli. Se un genitore è un sequestrato in casa con un figlio che è il suo carceriere, ma anche il suo sorvegliato speciale, difficilmente avrà una vita decente. L'autistico sente intimamente, sensibilmente, ogni variazione di umore. Un padre stressato, una madre che non ce la fa più, è sintomo di una grande agitazione. Quindi si crea questo processo di altri loop. Più sei tu infelice, più tuo figlio crea dei comportamenti problema. Da questo bisogna uscire. E nel libro un ruolo importante a proposito della famiglia ce l'ha il fratello di Tommy, il quale soffre e vive questa situazione con le problematiche che può avere un ragazzo che vede appunto i genitori dedicarsi soprattutto al piccolo. Sai, capita in molte famiglie, ci sono altri figli non autistici. E a un certo punto, anche nei momenti delicati della loro vita, vedono la famiglia tutta spostata su un problema. È un po' come il fratello bravo del figlio il prodigo, dice: ma come, tutto per lui che non fa nulla e io che tutta la vita ho fatto qualcosa. Sono ragazzi normalmente che hanno un grande senso di responsabilità, quindi non chiedono nulla per se stessi, si isolano, lasciano che la famiglia si occupi di questo fratello balzano, però naturalmente maturano anche loro dei grossi problemi. Quindi bisogna avere anche grande attenzione per i fratelli, fare la comunità dei fratelli di ragazzi disabili non sarebbe male, almeno esiste una sorta di possibilità di comunicare fra loro. Tu pensa a portare semplicemente un compagno a casa a studiare quando c'è un fratello autistico scatenato per casa, non è semplicissimo. Sono aspetti che, sai, normalmente non tira fuori nessuno, perché sono gli aspetti banali, tristi della vita. Meglio parlare per metafore, per fantasmagorie, per situazioni da romanzo. La realtà è questa, una realtà da affrontare ogni giorno. Io l'ho tirata fuori, ho sciorinato il mio privato. Spero che questo serva a qualcosa. Ecco, il tuo libro si conclude poi con la utopia finale, ne hai fatto già un cenno, quello di costruire delle comunità, delle strutture. Che cosa sogneresti? In che cosa si dovrebbe realizzare quest'utopia? Beh, io mi sto muovendo concretamente. Al Comune di Roma sono diventato una spina nel fianco, probabilmente assegneranno un'area all'interno del Bioparco di Roma, che è una zona bellissima, c'è un rudere che sta lì da non so da quanti decenni inutilizzato, una volta ci stavano i rettili e i volatili e adesso probabilmente potrebbe diventare un grande centro di osservazione, di studio, di analisi e di produzione di modelli possibili di vita per gli autistici. Sto cercando di far capire che bisogna creare dei centri pilota, osservare cosa si fa all'estero e portarlo nel nostro paese, sennò altrimenti il problema non si risolverà mai e gli autistici crescono in maniera impressionante. Siamo arrivati a un bambino ogni 100 che nasce con problemi di autismo, quindi c'è anche molto da studiare, da fare ricerca su questa materia. Grazie a Gianluca Nicoletti, autore di Una notte ho sognato che parlavi, e saluti a Tommy naturalmente. Grazie a voi. Ricordo che questa radio sta dedicando particolare attenzione a questa iniziativa di Gianluca Nicoletti. Sul sito di Radio 24 potete trovare il blog di Nicoletti, che si chiama www.miofiglioautistico.it. Questo appunto per dare consistenza allo sforzo di Nicoletti di costruire anche la struttura di cui ci ha parlato. E a questo punto... Il confettino. Un confettino oggi affidato a un grande scrittore italiano, Ferruccio Parazzoli, che ha pubblicato Il tesoro del polpo zoppo con Mursi a 114 pagine, 10 euro. Parazzoli ha 8 nipoti, allora ha raccontato in 21 serate questo racconto nell'agosto del 2010. Adesso ha messo per iscritto questi racconti e questo è il suo primo romanzo marinaro. Dalla trama avvincente, con al centro il tesoro del conte Corsaro, che parte da un lontano passato e arriva fino a oggi tra avventure e incantesimi. E uno dei personaggi fantastici di questo libro, La strega Maciuccia, ritroviamo in un altro libro ligure di Parazzoli, Il vecchio che guardava tramontare i tramonti. È pubblicato da Rizzoli, 108 pagine, 14 euro, nel quale un vecchio torna in Tiguglio per aggiustare una vecchia casa accompagnato dall'ombra della moglie defunta. Resterà lì solo a lavorare in compagnia di una bambina che ogni giorno gli porta da mangiare. Anche questa è una favola per grandi. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni e dove potete trovare il blog di Nicoletti di cui abbiamo parlato. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.